9 in punto. La versione di Oscar. Andiamo direttamente in diretta dal Senato, perché il presidente del Consiglio Berlusconi ha cominciato da non più di 30 secondi il suo intervento. Per la seconda volta nel volgere di poche settimane, il Parlamento è chiamato a decidere sulla fiducia al governo. Il mio rispetto per le Camere, che sono espressione libera della sovranità popolare e ad essa rispondono di regola ogni 5 anni, mi impone di aprire queste brevi considerazioni con una franca e leale promessa nell'interesse superiore della democrazia. Abbiamo bisogno di continuità operativa, di un governo in perfetta efficienza, di una cooperazione istituzionale e politica ampia. Abbiamo bisogno di capacità di decisione. Abbiamo bisogno di tutto tranne che di una crisi al buio, senza che vi siano alternative valide al quadro politico stabilito dagli italiani con il loro voto. Se vi è un dato certo del nostro sistema politico, è che oggi nel popolo italiano è profondamente radicata la volontà di poter scegliere direttamente da chi essere governati, ad ogni livello, dal sindaco della propria città al capo del proprio governo. La gran parte dei cittadini non vuole che le decisioni prese nel momento delle elezioni possano venire modificate da logiche o interessi politici che sono a loro completamente estranei. Se un governo non ha bene operato e deve lasciare, deve essere il popolo a deciderlo, il popolo al quale il primo articolo della nostra Costituzione attribuisce la sovranità. Se questo principio viene violato, si tradisce la lettera e lo spirito della Costituzione. I liberi parlamenti sono chiamati ad interpretare e a rappresentare la volontà popolare, non a sostituirvisi per ragioni di interesse di parte. Ecco perché la questione che abbiamo di fronte si pone in termini semplici e chiari, in termini comprensibili da tutti i cittadini e da tutti i parlamentari. Fiducia o sfiducia? Crisi al buio? Sì, crisi al buio? No. Su questi due punti maggioranza e opposizione discuteranno oggi al Senato e alla Camera. La nostra posizione è assolutamente chiara, come chiaro è il mandato a governare conferitoci dal popolo italiano 2 anni fa. Prima e al di là delle scelte dei gruppi e dei singoli e prima di ogni divisione, tutti abbiamo il dovere e la responsabilità di essere sempre costruttivi quando governiamo e legiferiamo in nome del popolo. Sono costruttive le maggioranze quando sostengono e incalzano i governi a governare. Sono costruttive le opposizioni quando con le loro contestazioni e le loro proposte offrono, o almeno preparano, delle alternative. Ma non solo la fiducia, anche la sfiducia deve essere costruttiva. Vi sono moderne democrazie parlamentari, penso a quella tedesca, che proprio per fugare i rischi di instabilità prevedono addirittura la sfiducia costruttiva come istituto costituzionale. Si può cambiare un premier e scomporre una maggioranza votati dagli elettori, ma bisogna provare che un altro premier e un'altra maggioranza sono possibili. Bisogna dichiarare chi e quale e poi provare che sono possibili. Mi si obietterà, magari dalle stesse tribune, le stesse che un giorno sì e un altro pure invocano il modello tedesco anche per l'Italia, che la democrazia parlamentare italiana è un'altra cosa. Ebbene, per quanto la democrazia parlamentare italiana possa essere diversa dai modelli più acclamati, nessuno è autorizzato a pensare e ad agire come se la nostra democrazia possa essere ridotta a teatro di inconcludenti velleità. Nessuno può dimenticare che il grande mutamento del sistema politico, cui molti a destra e sinistra abbiamo collaborato, si fonda anche sulla decisione di assicurare la stabilità della funzione di governo, indicando sulla scheda il nome del candidato Premier ed imponendo a tutti chiare scelte di programma e di alleanza davanti agli elettori. Ora, ripeto, comprenderei chi volesse sfiduciare il governo e aprire una crisi invocando elezioni anticipate o almeno potendo indicare un premier diverso ed essendo sicuro di poter formare una maggioranza diversa. Non riesco viceversa a comprendere quale spirito animi chi vuole a tutti i costi aprire una crisi al buio. A chi serve una crisi al buio? A cosa serve una crisi al buio? A cosa mira chi la pretende? Forse spera che dalla confusione e dalla paralisi nasca il doppio risultato di ribaltare questo governo e di evitare le elezioni anticipate? Vana speranza quella di chi vuole azzerare i risultati delle elezioni politiche, di quelle europee anche, di quelle regionali anche, di chi vuole mandare all'opposizione chi ha vinto e portare al governo chi ha perso. Ecco perché oggi l'Italia ha bisogno di tutto, tranne che di personalismi, tranne che di spirito di fazione, tranne che di logiche di piccolo gruppo, di una stagione in cui di nuovo, come negli anni tristi di decadenza della Prima Repubblica, si manifesti quella logica di autolesionismo che conduce ineluttabilmente le istituzioni a perdere la fiducia del Paese reale. Dal voto delle Camere dipendono la prospettiva di stabilità e la speranza di crescita di un sistema economico e finanziario impegnato in una competizione durissima e in una sfida finora vincente contro una costellazione di forze che vorrebbero trascinare il Paese in una spirale di declassamento e di dequalificazione che gli italiani certo non meritano. L'Italia è percorsa, come del resto tutti i paesi occidentali, da serie tensioni che riguardano il cuore del sistema economico, ovvero la credibilità finanziaria dello Stato. Affrontiamo queste tensioni forti di un lavoro straordinario e di una disciplina rigorosa e intelligente dei conti pubblici. Abbiamo condotto in porto e tenuta ben salda la riforma delle riforme, il passaggio da una legge finanziaria che tutti giudicavano inadatta alla governabilità di una grande e ordinata democrazia moderna, con quello che si chiamava il famoso assalto alla diligenza, ad una legge di stabilità che protegge con maggiore efficacia i conti pubblici e il bilancio dello Stato, e quindi il nostro lavoro, e quindi le nostre imprese, i redditi e i risparmi delle famiglie, le pensioni, i servizi sociali, l'istruzione e la ricerca. Gravati come siamo dal terzo debito pubblico del mondo, pur non avendo la terza economia del mondo, in una fase di tensione dei debiti sovrani di piccoli e medi paesi europei, ci siamo battuti e ci battiamo sui mercati internazionali all'interno dell'Unione Europea per affermare la nostra vitalità, la robustezza reale della nostra economia, il nostro buon diritto nell'ideare e negoziare un futuro di crescita dell'Unione e dell'area dell'euro. Facciamo tutto questo non soltanto con la riduzione degli sprechi e degli eccessi in spese pubbliche improduttive, ma anche ribadendo la centralità e il carattere virtuoso dell'alto tasso di risparmio privato, un dato che ci protegge da avverse pressioni finanziarie esterne e da rischi istituzionali e politici. È difficile non rilevare come siano pretestuose, generiche e qualunquistiche le critiche con le quali si attacca l'operato del governo per legittimare la contestazione nei suoi confronti. Così si lavora contro l'interesse nazionale. Forse non si vuol vedere quanto è successo e quanto sta succedendo intorno a noi. Forse si è dimenticato che l'Italia è entrata nella crisi in condizioni assai più difficili di altri paesi, perché ha dovuto affrontare la crisi finanziaria, la crisi economica globale, con un debito pubblico imponente, il più alto tra i paesi in Europa. Un debito, non ce lo dimentichiamo mai, ereditato dai governi del compromesso storico. Questo debito sovrano dell'Italia la esponeva più di altri agli attacchi speculativi. All'inizio, nell'acronimo PIGS, con cui si indicano da tempo i paesi a rischio di sostenibilità finanziaria, la I stava per Italia. Oggi questa I non si riferisce più a noi ed il nostro debito sovrano non è sotto attacco. Le aste dei titoli del debito italiano procedono regolarmente e non incontrano ostacoli. Solo chi è in malafede può ritenere che ciò non sia dovuto alle politiche responsabili messe in campo da questo governo e alla tenuta complessiva di un sistema paese che è formato da imprenditori operai, da lavoratori autonomi e da lavoratori dipendenti, da un sistema creditizio solido, da famiglie che risparmiano, da un sistema sostanzialmente sano e positivo. Abbiamo capito tempestivamente la portata della crisi e soprattutto abbiamo capito i pericoli che correva l'Italia per la fragilità delle sue finanze pubbliche ereditata appunto dal passato. Non abbiamo seguito le sirene, sia domestiche che internazionali, che ci invitavano a contrastare la crisi con stimoli fiscali, cioè con maggiore spesa pubblica. Così, mentre molti paesi raddoppiavano nel corso della crisi il proprio debito in rapporto al PIL, l'Italia non ha voluto andare in quella direzione. Sarebbe stato dai responsabili allargare la spesa pubblica per sostenere la crescita nel corso di una crisi in cui l'aumento del rapporto debito-PIL era già dettato dalla recessione, cioè dalla diminuzione del denominatore del rapporto. Diminuendo il denominatore, il prodotto interno lordo, è chiaro che automaticamente si aumenta il numeratore. Per questa via l'Italia si è assunta le proprie responsabilità nel contribuire al mantenimento della stabilità finanziaria e monetaria in Europa e ha sempre trovato sui mercati finanziari convinti sottoscrittori dei propri titoli pubblici. Questo lo si deve alla politica seguita dal nostro governo, che ha fatto sì che il deficit pubblico italiano sia oggi tra i più bassi dei paesi avanzati, ma lo si deve soprattutto al fatto che questo governo, assumendosi le proprie responsabilità, ha acquisito reputazione e credibilità sui mercati. Posso dire con assoluta sicurezza che l'Italia non è più parte dei problemi dell'economia dell'Europa, è diventata parte della soluzione di questi problemi. Grazie a questa credibilità l'Italia ha potuto svolgere anche un ruolo propulsivo nella politica europea. Mi riferisco a uno dei più importanti temi oggi in discussione, un tema fondamentale per il futuro dell'Europa e del nostro Paese: la necessità di un controllo centrale ed unitario dei debiti sovrani e di uno strumento europeo di stabilizzazione finanziaria. Ora, con la franchezza di sempre, chiedo a voi, onorevoli senatori, di riflettere in piena libertà di coscienza su quello speciale genere di follia politica che sarebbe oggi l'apertura di una crisi senza prevedibili e visibili soluzioni. Di fronte alle campagne antiparlamentari in corso, dobbiamo dare ancora una volta prova di quella piena responsabilità che il Paese pretende dalle Camere. Ma ora, con la stessa certezza morale, se permettete, con il coraggio politico che considero tutt'uno con il mio ruolo, Voglio rivolgermi direttamente a tutti i parlamentari che nel 2008 sono stati eletti nelle liste del Popolo della Libertà, a coloro che hanno votato la fiducia a questo governo più volte e in special modo il 29 settembre di quest'anno, e a coloro che hanno fatto parte di questo governo e ben conoscono quanto di buono tutti insieme si è fatto. Mi rivolgo in particolare a coloro che hanno aderito ad altri gruppi parlamentari che insieme all'intera opposizione hanno presentato alla Camera una mozione di sfiducia al governo eletto dai loro stessi elettori. Sono certo che in questo momento nessuno di voi può avere dimenticato la lunga strada che abbiamo percorso insieme dal 1994 ad oggi, le battaglie che abbiamo condotto insieme, le mete che abbiamo raggiunto, quei traguardi che fino a pochi anni fa sembravano addirittura irraggiungibili. Sono altrettanto certo che nessuno di voi intende gettare via così frettolosamente tutto ciò che in questi anni abbiamo costruito insieme, dal bipolarismo alla nascita del Partito Unitario del Moderati, dall'alternativa alla sinistra italiana alla guida di un governo riformatore. Sono certo che ciascuno di voi, nel proprio intimo e nella vostra coscienza, sa che l'attuale governo non ha affatto demeritato, non ha affatto tradito il mandato del popolo sovrano. Ognuno di voi sa che ciò che abbiamo fatto in questi due anni è stato tanto, soprattutto se pensiamo alle condizioni difficili e impreviste che abbiamo dovuto affrontare. Non è certo casuale che il sostegno del popolo italiano nei confronti di questo governo sia di gran lunga il più alto di ogni governo europeo. Non è certo un fatto casuale che siamo l'unico governo ad aver vinto le elezioni di medio termine. E questi sono fatti, non sono opinioni di parte. Sono assolutamente convinto, infine, che ciascuno di voi sa che qualunque dissenso è legittimo, qualunque critica è possibile, ma la rottura no, la sfiducia al governo no, la divisione del campo dei moderati no. Tutto si può dire, tutto si può fare, ma non progettare un'alleanza con la sinistra in questa legislatura, camuffata da un governo di transizione, e neppure unire i propri voti a quelli dell'opposizione, sommando grottescamente i voti sottratti al Popolo della Libertà a quelli del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori. Tutto si può fare, ma non si può tradire il mandato ricevuto dagli elettori. Chi persegue questi obiettivi lo può fare ad una sola condizione: che si torni dagli elettori e che si spieghi a loro perché si è cambiato opinione, presentando al popolo italiano le proprie idee, le proprie critiche, i propri programmi e le alleanze politiche attraverso cui si ritiene di poterli realizzare. Se invece è sincera e reale la preoccupazione per la situazione difficile in cui si trova l'Italia al pari di tutti gli altri paesi europei, allora l'unica strada possibile è quella di rinnovare la fiducia all'attuale governo. Di rinnovarla perché il governo ha bene agito e di rinnovarla per senso di responsabilità nazionale. E ciò vale ancor più in questo difficile momento per il Paese, per chi non era con noi nel 2008. Un voto di fiducia così motivato sarà testimonianza di realismo e di saggezza politica. Un voto di fiducia così motivato consentirà di evitare una crisi al buio di cui l'Italia non ha alcun bisogno e aprirà una fase politica nuova. Un voto di fiducia così motivato consentirà di completare entro la fine della legislatura le 5 azioni strategiche sancite dal Parlamento il 29 settembre, con la più ampia fiducia mai ottenuta dal nostro governo e già realizzate in grandissima parte da questo esecutivo. Abbiamo già approvato il federalismo fiscale, che serve anche a contrastare in maniera nuova ed efficace l'evasione fiscale. Abbiamo approvato il piano per la sicurezza dei cittadini per contenere anche l'immigrazione clandestina. Abbiamo approvato il piano per il Sud, che pone fine agli interventi a pioggia usati dalla vecchia politica e mette a disposizione 100 miliardi di euro, 200 mila miliardi di vecchie lire, per alcuni grandi progetti strategici che produrranno lavoro e benessere per tutti, a cominciare dai giovani e dalle donne. Abbiamo avviato e stiamo già lavorando alla riforma del fisco, con 4 tavoli tecnici in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori. Siamo per varare definitivamente la riforma dell'università, già approvata alla Camera, che rappresenta una svolta di grande importanza per l'avvenire dei nostri giovani, come è riconosciuto da gran parte degli osservatori, anche i più lontani e i più critici verso questo governo, e contro la demagogia di chi sale sui tetti per intestare la protesta alla propria parte politica. È per questo che la sinistra, incurante dei veri interessi degli studenti, cerca di combattere questa riforma alimentando tutte le proteste che mirano di fatto a conservare una situazione che non premia gli insegnanti migliori, che non promuove il merito degli studenti migliori, anche se appartenenti alle classi sociali più deboli, che non contribuisce allo sviluppo del Paese. Ma noi andremo avanti perché vogliamo aprire ai giovani la strada del merito, dello studio, della ricerca, affinché possano competere in Europa su un piano di parità con i Paesi migliori, come hanno riconosciuto gran parte degli osservatori. È pronta anche la riforma della giustizia e la presenteremo al Parlamento dopo un ulteriore confronto, senza contare tutti gli altri provvedimenti in corso di gestazione che vanno dalle professioni all'agricoltura. Non solo. Dopo aver seguito la linea del rigore che ha messo l'Italia al riparo dai contraccolpi derivanti dalle crisi finanziarie internazionali che si sono succedute dal 2000 oggi sino ad oggi, e tenendo conto di questo quadro, riprenderemo il dialogo con le parti sociali, come sempre d'altronde abbiamo fatto in passato, anche sulla base delle proposte recentemente avanzate insieme da Confindustria e sindacati, cercando di coniugare il necessario rigore con gli interventi per la crescita. Su questo punto terremo anche conto dei suggerimenti e delle proposte di tutti, comprese quelle del Partito Liberale in ordine alle privatizzazioni. Il nostro è da sempre il governo dell'ascolto e dell'apertura a quanto di meglio propone la società civile, perché vogliamo perseguire il bene comune di tutta l'Italia e di tutti i suoi cittadini senza alcuna distinzione sociale e geografica. Riprenderemo con vigore anche l'azione per portare avanti le riforme istituzionali. C'è già un'intesa sui principi fondamentali riguardante 3 questioni: l'aumento dei poteri del Presidente del Consiglio, la riduzione del numero dei parlamentari, il superamento del bicameralismo. In rapporto con questa azione riformatrice si pone il problema di una modifica della legge elettorale, che per noi ha un solo limite invalicabile: la difesa del bipolarismo. Perché vogliamo che il cittadino sappia in anticipo chi sarà il leader, quale sarà l'alleanza di governo qual è il programma di modernizzazione del Paese. Onorevoli senatori, come avete potuto ascoltare, come potete vedere, la nostra posizione è chiara. E a questo punto chi ha più responsabilità la deve dimostrare. Per parte mia, considero mia responsabilità non trascurare ogni possibilità di dialogo con l'opposizione. E mia responsabilità ricomporre e rinnovare l'alleanza di tutte le forze moderate che sono state all'origine del nostro impegno politico e che oggi ritroviamo, oltre che nel Popolo della Libertà, nella Lega, nel FLI e nell'UDC. L'unità dei moderati italiani, questo patrimonio storico e politico, è il frutto più prezioso di questa fase. E, consentitemi di sottolinearlo, del mio personale ultradecennale impegno politico. L'unità dei moderati italiani è un patrimonio inestimabile e nessuno può essere così irresponsabile da distruggerlo volontariamente o involontariamente. Non dobbiamo mai dimenticare che il popolo dei moderati è davvero un popolo unito, che condivide gli stessi valori e la stessa visione del futuro, che condivide la stessa visione della libertà, della persona umana, della patria, della famiglia, del lavoro, dell'impresa. Quando parliamo del futuro dei moderati, dobbiamo sempre ricordarci che prima viene il popolo dei moderati, prima vengono le nostre donne e i nostri uomini, e solo dopo vengono i partiti e i loro leader. In una democrazia il popolo che sceglie i leader non sono i leader che scelgono il popolo. Sono convinto che le difficoltà e le divisioni interne che sono insorte non sono affatto insormontabili. Devono tornare a prevalere il buonsenso e il senso della misura. Questo è quanto il popolo dei moderati ci chiede. Non ci chiede di dividerci, ci chiede di unirci per il bene dell'Italia. A tutti i moderati di questo Parlamento propongo quindi un patto di legislatura per garantire coerenza e continuità con il programma elettorale e con le scelte condivise, rinnovando quel che c'è da rinnovare nel programma e nella compagine di governo. Decidiamo insieme quale sia la strada e quale sia lo strumento più indicato. Onorevoli senatori, oggi non è in gioco la persona del Presidente del Consiglio. Oggi è in gioco la scelta tra il proseguimento di un progetto di cambiamento e la restaurazione, ovvero il ritorno all'indietro, il ritorno a quei vizi tradizionali della politica che sono all'origine dei problemi di cui ora soffre l'Italia. Il nostro Paese ha bisogno di stabilità e di governabilità, condizioni indispensabili per realizzare quelle riforme di cui vi è urgente necessità. Garantire oggi la stabilità è la prima condizione per mettere al sicuro gli interessi del Paese e per cercare di ricomporre l'area moderata. Se il Governo otterrà la fiducia, da domani lavoreremo per queste finalità, per ricomporre l'area moderata, per allargare quanto possibile l'attuale maggioranza a tutti coloro che condividono i valori e i programmi dei moderati, a partire da chi si richiama alla forza politica più forte in Europa, alla grande famiglia della democrazia e della libertà che è il Partito del Popolo Europeo. Lavoreremo anche per rafforzare la squadra di governo e sono fermamente convinto che alla fine la ragionevolezza e la responsabilità vincono sempre sulla irragionevolezza e sulla irresponsabilità. Sono convinto che il bene comune prevale sempre sugli egoismi interessati e che per questo penso che noi andremo avanti e continueremo a lavorare nell'interesse di tutti. Se questo non dovesse avvenire, sono certo che il popolo italiano, dal quale questo governo e questa maggioranza hanno avuto un chiarissimo mandato ed una piena legittimazione a guidare il Paese, Il popolo italiano, quando verrà il momento, saprà valutare con buon senso e con giustizia i meriti e le responsabilità. Vi ringrazio. Eccoci immediatamente tornati su, direi che possiamo far partire un blocchetto di pubblicità per poi commentare con Stefano Folli e voi ascoltatori questa 35 minuti di intervento del Presidente del Consiglio Berlusconi. Pubblicità intanto. Eccoci tornati in studio, azzettiamo un primo commento a questo intervento del Presidente del Consiglio. Abbiamo con noi Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Ciao, ciao. Che ti è sembrato di questo intervento? Ma mi è sembrato un intervento naturalmente volto a recuperare quei personaggi ancora incisi sulla Camera che possono ancora fare la differenza, con una prevedibile apertura soprattutto all'UDC quando ha parlato dell'unità dei moderati da preservare nella chiave del Partito Popolare Europeo, e poi mi è sembrato però un discorso che contiene anche, direi, una chiave elettorale. In fondo quello che oggi ha detto Berlusconi vale oggi per ottenere forse una fiducia stringente alla Camera dei Deputati, può valere domani come piattaforma da presentare agli elettori contro i traditori, i cosiddetti traditori, coloro che hanno tradito il mandato elettorale del 2008, e per garantire un programma economico di contenimento della spesa e di rigore sui conti, che è la parte centrale del discorso e che è quella scritta palesemente da Tremonti. Quindi direi un discorso in una doppia chiave, parlamentare oggi e elettorale forse domani. Oh, sui punti delicati, quelli che servivano per mandare dei segnali, appunto, come hai sottolineato tu, a parte, voglio dire, l'aspetto che è l'unico sui quali l'Aula ha un po' sorriso al Senato, perché è ovvio che il riferimento alle privatizzazioni tutti hanno capito che per il voto di Guzzanti, però sulla legge elettorale, quando il Presidente del Consiglio ha detto l'unica cosa intoccabile per noi è il bipolarismo, come a far intendere che ci si può su tutto il resto esercitare concretamente, secondo te, per il proseguo di questa legislatura, che tipo di offerta era? Ma io forse qui mi sbaglio, ma non mi è sembrato sotto questo aspetto un grande segnale. Anche a me, sì. Mi è sembrato piuttosto debole, perché la richiesta che gli viene da Casini, da Fini, insomma, da tutta la che lo hanno contestato su questo, che è un po' il punto cruciale, è di abolire o ridurre grandemente il premio di maggioranza, e su questo dicendo discutiamo su tutto ma non indeboliamo il bipolarismo, questo mi sembra un no alla possibilità di ridurre il premio di maggioranza o di fatto il premio di maggioranza alla Camera. Quindi su questo punto mi è sembrato che il patto con la Lega, che è fondato invece poi sul mantenimento sostanziale di questa legge elettorale, mi sembra che abbia tenuto. E quindi su quale altro terreno, secondo te, nei confronti dell'onorevole Casini, che devo dire in questi ultimi giorni rispetto a Fini, rispetto a questo grande centro che sembrava profilarsi, insomma, si è un po' sfilacciato il rapporto, ma nei confronti di Casini il vero punto di offerta di dialogo qual è? Ma il vero punto è di alle elezioni che possa fondarsi su un'apertura che, diciamo, che in qualche modo fa intendere Berlusconi da quello che ha detto, o anche da quello che non ha detto, ma insomma mi posso leggere così, che la Lega accetterebbe oggi di avviare una trattativa con Casini, mentre fino all'altro giorno, insomma fino a qualche tempo fa, apparentemente lo escludeva, no? Perché a me ha colpito quando ho parlato verso la fine del popolo, prima viene il popolo moderato e poi partite, lui ha elencato esattamente Lega, FLI e UDC sullo stesso piano. Sì. No, ma c'è chiaramente un tentativo di riavviare un discorso, insomma, è consapevole che non potrà governare con quei 2, 3, 4, forse uno voti che potrà prendere la Camera. Quindi il passaggio di cercare di ricomprendere l'UDC in questa chiave, questo che tu stesso adesso hai ricordato, si farà. E si farà sostanzialmente con l'assenso della Lega, evidentemente, su questo mi sembra di poter dire, no? tono, diciamo, che ha usato Berlusconi oggi. Se questo non sarà possibile, rimane lo scenario delle elezioni anticipate. Allora, un secondo solo, anche perché poi la qualità del collegamento con Stefano Folli sta decadendo. Sentiamo due telefonate e poi le ricommentiamo con lui. Cominciamo con Giorgio, che ci chiama da Firenze. Prego Giorgio, che le è sembrato il Presidente del Consiglio oggi? Ma diciamo, la parte principale del discorso, che secondo me doveva essere ribattuto più volte, perché vedo che illustrissimi commentatori non ci cadono con l'attenzione, è quello del giorno dopo, del day after. Cosa accadrebbe se Berlusconi cade? Chi è il Presidente del Consiglio o i papabili, i ministri dell'economia, dell'interno? Cioè, se si fa questo ragionamento, magari si cominciava a farlo qualche settimana fa a livello un pochino più professionale e sugli aspetti più che altro tecnici, sicuramente si poteva avere anche delle risposte dai nostri illustri politici, che ovviamente in questo caso... E infatti Giorgio, in tutta la parte iniziale, in realtà la ciccia, quando è arrivato alla materia vera del suo intervento, il Presidente del Consiglio ha sottolineato: qui il vero interrogativo è una crisi al buio, cari miei, perché voi con una crisi al buio. E poi ha continuato con la parte, diciamo, scritta da Tremonti, come diceva Stefano Folli, cioè la parte della credibilità finanziaria dello Stato. Però ha evocato la sfiducia costruttiva alla tedesca, cosa che da noi manca, come a dire, appunto, non avete saputo proporre e non avete in realtà neanche i margini numerici, nell'incertezza del risultato che potrebbe non costerà al governo di avere un solo voto di maggioranza e andare avanti, però su questa stessa base numerica, certo neanche voi, le opposizioni, avete la base per una svolta capace di darci una garanzia che l'Italia non vada poi nei vortici dell'eurocrisi. Quindi la crisi al buio è in effetti tornato il vero argomento. Adesso sta parlando in aula al Senato il senatore Nicola Latorre, ho sentito qualche applauso perché era intervenuto prima poi la senatrice Rosi Mauro per la Lega. Sentiamo Alberto, che ci chiama invece da Vicenza. Prego Alberto. Buongiorno, complimenti come sempre. Io ho ascoltato prevalentemente la parte finale del discorso, però non ho visto appunto niente di nuovo. Ha fatto il discorso che doveva fare, l'appello alla responsabilità a tutti, in modo tale che a questo punto ha girato il solito cerino, no? Ha fatto benissimo. Adesso vedremo come va a finire. È un po' scontata comunque però la fiducia al Senato, cioè non è che sia... Sì, no, il problema è, come si vede dai quotidiani di oggi, tutti sono nel tentativo di capire se per uno in più o uno in meno alla Camera dei Deputati la maggioranza ce la faccia o meno, tra parlamentari che sono in poi le tre deputate che sono in anche in attesa sono in gravidanza con le nascite ad Horas, e se gli ultimi parlamentari dall'esito incerto si schiereranno dichiarando di raccogliere l'appello alla responsabilità di Berlusconi oppure no. Però il fatto è che ieri l'onorevole Fini, andando da Annunziata, ha preso una posizione molto netta, energica, molto, ha assunto un rischio, per così dire, cioè quello di puntare tutto sul fatto che l'esito del voto alla Camera sarà un esito sfavorevole a Berlusconi. E quindi, di fronte a una sfiducia, Fini si è puntato sul petto, sia pur in giorni in cui, ripeto, il terzo polo, come scrivono oggi parecchi quotidiani, c'è un articolo su tutti, forse il più esplicito, che si occupa di questo, sulla stampa, che titola "Nuovo patto Casini-Fini, ma l'FLI può sgretolarsi", quindi su questa incertezza del terzo polo negli ultimi giorni. Ma però Fini, il fatto di ieri è stato che si è puntato sul petto un bel rischio personale, dicendo: no, per me va sotto, e a quel punto se ne va all'opposizione. Su questa prospettiva assunta ieri da Fini, era un po' il tono muscolare del giorno prima per consolidare il fronte dei suoi stessi indecisi, secondo te Stefano Folli, oppure che cosa vuol dire? Ma Fini non aveva altra strada che questa. Al punto in cui sono arrivate le cose, Fini può soltanto puntare sull'en plein, sul successo pieno della sua posizione, cioè sulla sfiducia del governo. Se questo non sarà, se avesse esitato su questo punto, avrebbe disgregato la sua formazione parlamentare, e così rischia moltissimo, appunto, come si è detto, però non mi sembra che avesse un'altra strada, visto che i tentativi di trattativa più o meno espliciti mesi scorsi sono falliti, e quindi a questo punto, se dovesse perdere la sua stessa, sì, andrà all'opposizione, il che comporta tutta una serie di conseguenze. Mi domando come possa restare Presidente della Camera in caso di sconfitta parlamentare. Questo sarà un problema che si aprirà, e io credo che in caso di fiducia ottenuta Berlusconi e i suoi lo porranno. Ora, l'ipotesi invece che possa scapolarla, sia pure di un voto due, e a quel punto intavolare un'ipotesi di estensione del governo coerente a questo appello ai moderati con cui ha concluso il suo discorso, un discorso che ha sempre tenuto toni volutamente lontani da ogni polemica, come abbiamo detto all'inizio con Stefano Folli, questa ipotesi di un rafforzamento del governo, dopo che già si era ottenuto il voto a settembre sui 5 punti, poi si era tornati indietro, è una prospettiva secondo te davvero percorribile, alla quale il Quirinale potrebbe dare un occhio interessato, ma alla quale Casini avrebbe interesse davvero, dopo che si è fatto contare con i suoi elettori prima delle ultime elezioni contro Berlusconi? Casini avrebbe davvero un interesse ad accettare una prospettiva di questo tipo? Guarda, io sono molto scettico, naturalmente, sono molto scettico, però penso che dal punto di vista tattico Berlusconi e anche Bossi faranno quello che devono fare per dare un senso a questa trattativa, lo abbiamo già visto, diciamo, nella sostanza del discorso di oggi. E dal punto di vista tattico anche Casini, secondo me, è in una posizione comunque migliore di quella di Fini dopo il voto, perché lui è stato sempre all'opposizione, ha sempre avuto una posizione coerente. Se questo voto di sfiducia non va a buon fine, tutto sommato perde di meno di quanto perde Fini, che invece ha puntato tutto su questa operazione che dura ormai da mesi e che domani arriva a conclusione. Quindi in qualche misura Casini può anche permettersi il lusso, diciamo, di negoziare con Berlusconi qualcosa, anche se io, ripeto, non credo che questa cosa potrà arrivare poi a un risultato concreto. Però tatticamente, visto anche che l'elettorato di Casini è un elettorato moderato, che può essere sensibile agli argomenti e ai toni usati anche oggi da Berlusconi, penso che questo contatto, questo confronto ci potrà essere, e poi se non va, è chiaro, ci saranno le elezioni anticipate. Naturalmente, poi attenzione, perché le agenzie naturalmente stanno rilanciando una dichiarazione di Bossi, comunque fatta prima di entrare in aula e sentito anche Berlusconi, confermata con un voto in più non si governa. Questo è la dichiarazione di Bossi, che fa capire come, al di là della tattica, effettivamente è molto probabile che con uno in più o con uno in meno siano poi le elezioni. Però per Fini il punto è veramente delicato e decisivo, perché se Fini riuscirà ad ottenere alla Camera dei Deputati il fatto che Berlusconi vada giù, in ogni caso a quel punto il tono si surriscalda, è inevitabile probabilmente ancora di più le elezioni, ma comunque si gira a pagina, si compie un passo verso il tentativo da parte di un pezzo del centrodestra, esplicitamente, muscolarmente, per dimostrare: signori, con questo leader, il centrodestra, noi non ne faremo più parte. Se invece effettivamente alla Camera le cose vanno diversamente, forse per Fini è che si avvicina a un momento ben diverso da quello che siamo stati abituati in questi mesi a vedere. Naturalmente, per i cari ascoltatori di Radio 24, noi dobbiamo dirlo e ringraziare Stefano Folli: i veri temi al centro dell'agenda del paese, cioè le imprese, la crescita, che escono 200.000 imprese che escono dalla moratoria bancaria tra poche settimane, non potevano esserci in queste comunicazioni di Berlusconi. Il fatto che non ci siano però misura la distanza serissima, talvolta in apparenza incolmabile e nella sostanza incolmabile, tra i problemi di un'agenda di un paese serio e una classe politica che da mesi, per contro personali, per incomprensioni, per odi personali, si è messa a farci pensare se adesso sia più la botta a Berlusconi o sia più la botta a Fini. Ma l'agenda del paese è obiettivamente molto diversa. Bene, avete sentito oggi una trasmissione un po' diversa dal solito, però dovevamo ascoltare il Presidente del Consiglio, i primi commenti. Ora la programmazione riprende e quindi la linea al giornale radio.